Ciao, sono Paolo Piermattei, sto ascoltando Coxo Speciale. Va benissimo. Va bene, lo dice troppo. È bello lo stesso. Coxo spaziale. Coxo spaziale sarebbe. Perché poi, capito, spaziale. Lo utilizzerà per fare il jingle. Perciò mi devi dire coxo spaziale un attimo isolato. Coxo spaziale. C'era prima io che parlavo, pausa. Coxo spaziale. E poi adesso l'ha detto pure col suo buco ancora più profondo. Sì, sì, l'ha detto. Io sono tutta brividosa, poi sta bene perché fa un freddo qui dentro, quindi... Che bello, Paolo Piermattei, una bella persona, un bel personaggio, sì. Ma cosa fa nella vita? Adesso possiamo anche chiederlo a lui, o vuoi che sì, parli sì. Al suo posto? Ce l'abbiamo, sfruttiamolo. Con questa bella voce poi. Paolo, cosa fai nella vita? Allora, faccio 4-5 cose, ne dico una però. Sì. Allora, sono responsabile editoriale della Pressing Line, l'etichetta storica di Lucio Dalla. E lavoro da tanti anni lì, e poi posso dire anche la seconda, certo. Sì, insegno canto, la terza è che scrivo canzoni, anzi purtroppo la terza per me è la prima, però vabbè, non se ne accorgono in molti, per cui... Però anche perché hai scelto di non sì, apparire... Poi... Paolo Piermattei non esiste su Facebook, no. Non esiste su internet... No, non oh. Esiste. Sì, ma le foto ci sono proprio. Qualcuno l'ha messa, ma non è tipo solamente. Quindi siamo arrivati a tre cose. Cioè, nel senso, fai. Quindi mi hai detto la prima, faccio un po' fatica, però lavori in un'etichetta. La Pressing sì, Line. Lavoro. Ok. Sì. Insegni canto, quindi, cioè, di tutti i cantanti bolognesi o che passano per di qua, tu avrai una conoscenza spropositata. Sì, abbastanza, perché sono anni che sì, insomma, faccio questo lavoro qui, quindi molti lavori arrivano. In ufficio sono arrivati in ufficio soprattutto all'epoca di Lucio, quando c'era lui, e poi hanno continuato ad esserci, insomma sì, sì. C'è un gran bel movimento ancora a Bologna, nonostante stiamo facendo di tutto perché la musica non si faccia più, nonostante le apparenze, è diventata i costi, cioè è costoso, si può dire, diventa costoso, sì, farla. Diventa costoso perché non c'è nessuno che investe più nella musica, e mi sa che questo tema lo approfondiremo poi sì, mentre sì, la trasmissione. Non a caso l'ho introdotto, però forse l'ho introdotto troppo presto. Ritorniamo un attimo, ritorno io sì. E ci abbiamo il terzo punto, che scrivi canzoni, secondo me il quarto le canti anche con questa voce, esatto. Esatto. E quindi adesso che è giunto il momento del primo brano musicale, perché dobbiamo essere rigorose, precise, pulitissime, ciao Clelia Sedda, e, ascolteremo un tuo brano, visto che scrivi, canti. No, direi di no. Come? No, perché io non ho nulla di registrato, in quanto mi si può sentire, cioè no, su internet io non ci sono, ok? Cioè, non ma sono allora né è vero, YouTube, è vero che non era su Facebook. Non so, né su Facebook né su internet, è una cosa non che un sto cercando. Non ho un sito, non esisto. Cioè, me coxoni! No, questa cosa a me piace un sacco, perché in realtà io poi mi sono aperta a Facebook per lavoro e via dicendo. Però insomma due cozzi. Esatto. E quindi è un lavoro quello, cioè bisogna starci dietro tutto. Magari è anche bello farlo, però... E però allora no, cioè come questa bella voce si ascolta solo live. Allora, il problema è questo. Live o a teatro. Sì, comunque dal vivo. Il problema è che uno deve avere un feedback, no? Cioè il feedback scritto con i vari, come si chiamano, i like, post, vabbè, i commenti, cioè una roba fredda, invece tu sei davanti allo spettatore, credo che sia e quindi molto meglio, no? E quindi sì, sì, dobbiamo andarlo a vedere dal vivo, esatto. Poi certo. Magari ci dai due date così, che esatto. Noi pubblichiamo su www.costospaziale.blogspot.com, e perché noi twittateci, piacciateci, tutto, certo, hashtaggateci, tutto quello che volete. Siamo molto al network. E allora invece ascoltiamo un altro brano, magari andiamo a pescare fra le tue conoscenze più... Perfetto. You're a moonshade, mystery and grace. You're a moonshade, mystery and grace. Mm-hmm. show me hate. You show me love. Roberta e Paolo Pier Mattei, quanto mi piace il tuo cognome, è bellissimo però Pier Mattei. Allora il mio quello, di quello vecchio lo vuoi dire? No, il vecchio non diciamolo, dai. No, quello vecchio guarda che quando ti si attacca un W voi no, io non diciamolo, allora niente. Non diciamolo niente, e però andiamo invece a scavare più a fondo nell'anima, nella vita di Paolo. E nella pratica soprattutto, certo. Perché dobbiamo capire dove andarlo ad ascoltare sto cantautore. Dove ti troviamo, Paolo? Abbiamo detto anche a teatro, che è più nelle mie corde. Sì, allora nei prossimi giorni, esattamente giovedì prossimo. Cioè stasera? No. 3 dicembre. No, allora quello vabbè, dopo. Quello dopo ancora. Il prossimo giovedì. 3 dicembre. Giovedì prossimo, 3 c'è dicembre. Un numero il 3 dicembre. È semplice. E c'è uno spettacolo, il cui progetto è mio, è uno spettacolo ideato da Tiziana Sconocchia per la Fondazione del Monte. Oh, a, nei coxoni. L'Oratorio San Filippo Neri. Ed è uno spettacolo interamente dedicato a Roberto Roversi. Che niente poi, di meno di niente Umberto. Poco di meno che no, cavoli. Cioè, mi sto genuflettendo. Sì, veramente, ma che meraviglia. Grazie Roberta che mi hai portato Pier Mattei, che oltre ad essere un discreto gnocco e indubbiamente da domani le foto sul sito, eh? No, non potete controllare perché non sono su internet, quindi bene, credeteci con la X sopra. E, no, quindi dove eravamo? Sì, che praticamente ci sono letture anche molto particolari, molto belle della produzione, grandissima, enorme produzione di Roberto Roversi, insieme alle sue canzoni, cioè voi sapete che ha scritto dei testi anche molto importanti e anche per soprattutto un personaggio molto importante che era Lucio Dalla. Infatti. Per cui ci saranno... Colgo l'occasione per fare una marcord, che ricordo che il mio maestro Arnaldo Picchi considerava Roberto Roversi fra i suoi maestri, di quelli ancora in vita, l'unico, e ricordo la sua grandiosa collaborazione con Roversi e con Dalla per lo spettacolo Enzo Re. Esatto. Enzo Re. Ah, il famoso Enzo Re. Enzo Re. Che sì. Ha unito un po' tutti. Sì, io sono ero arrivata a Bologna quell'anno e sono passata attraverso Piazza Maggiore, no, Piazza Santo Stefano, e ho visto questi palazzi illuminati, questa musica. Sì, fu una cosa meravigliosa. Sì. Tra l'altro tutti i miei migliori amici di adesso all'epoca lavoravano per quello spettacolo. Sì, perché erano già picchiani, io sono arrivata molto molto dopo. Come Tommaso. Esatto. Che anche lui è uno di quelli che non gli piace dei compari. Quindi... Ho visto, silenzio. Rimuovete quel nome. E fra l'altro, sì. va bene, ma ritorniamo a noi quindi. Quindi poesie... Poesie, canzoni con un pianista d'eccezione che è Teo Ciavarella e un bravissimo chitarrista di nome Pietro Posani, giovanissimo ma straordinario, stupefacente, mi sa che l'ho sentito nominare anch'io. Poi Roberta Giallo, anche questa l'ho sentita nominare. Sì. Ma col W o senza? Senza. Cioè, no, fuori da qui io sono Roberta Giallo, solo qua io divento W. Hai capito, Pasquini, che fortuna. E tu in che ruolo sei? Io in realtà ho dovuto mettere su un po' tutto l'impianto, diciamo così, dello spettacolo, insieme a, soprattutto grazie alla collaborazione di Antonio Bagnoli, che è il nipote di Roberto Roversi, che mi ha dato una grande mano, e poi ci sarà Nino Campisi che leggerà le parti scritte. E poi ci saranno tante altre cose, tante sorprese, anche c'è persino una ragazza che fa teatro danza molto brava, che interpreterà un paio di pezzi, e poi ci sono altri cantanti, Simona Severini, Francesco Milanesi, Irene Catani, ditemi se mi sono dimenticato qualcosa. Francesco, Beh, domani su www.coxospaziale.blogspot.com il link per andare a vedere. Una cosa molto particolare. Ricordatevi del 3 dicembre, insomma, esatto. Filippo Neri. Beh, lo menzioneremo nel prossimo Coxo. Sì. Anzi, forse conviene già in questo, perché giovedì. Diamo il giovedì... tempo alle persone di ricordarsi. Sì. Sì, che poi dicembre arrivi in un lampo, è già qua. Già nei porti. Set them free, set them up and let them be their own release. And when it's time, you can begin to let things breathe, let it be. Bentrovati, ben ritrovati tutti qui alla 119esima puntata di Coxo Spaziale su Radio Città Fujiko insieme a Roberta Giallo, Fedra e l'ospite Paolo Piermattei, al quale vorrei porre una, due, tre, insomma qualche domanda riguardo alla musica. Sì. La musica ovviamente è un tema ampio, cioè è infinito, però vorrei concentrarmi su quello che oggi per molti è il problema della musica, cioè qual è il problema legato alla musica e alla fattibilità della musica in qualche modo. Ma il problema legato alla musica è che soprattutto per i giovani, diciamo, sì, chi inizia, è che si fa molta la musica ha un costo, per cui si fa molta fatica da parte di etichette, eccetera, di chi è preposto, diciamo così, storicamente a fare questo lavoro, al di là del fatto se produce o no fisicamente dei CD. Sì. Ok, però produrre proprio musica costa. nessuno investe perché... Perché costa? Perché c'è da chiamare dei musicisti? Beh, guarda, dai semplici costi di spostamento dei musicisti che devono magari venire a suonare nel tuo album, i costi di studio, degli strumenti... Sì. Per avere una qualità. Certo. Costa a livello promozionale. E poi costa anche, come dire, in base a chi la produce, per un giovane ragazzo che vuol prodursi e non ha qualcuno disposto a spendere per lui, anche farsi il disco in casa comporta comprare degli strumenti, dal computer ai microfoni, insomma. Vabbè, però questo, diciamo, passa. Però quello che è sicuramente un costo importante è la produzione e la promozione. Per cui diventa molto difficile che qualcuno investa non avendo nessun ricavo. Anche perché, come infatti, riguardo al ricavo, abbiamo parlato spesso del fatto che oggi la musica è gratis in qualche modo, esatto. No? Cioè, internet ha reso la musica, cioè, fruibile per gli spettatori, ma poco conveniente per chi la produce. E quindi il guadagno dove si sposta? Questa è una bella domanda. Sentiamo Paolo cosa. No, non è che il guadagno si sposti. Il guadagno intanto si è spostato per molti anni sul live. Cioè, effettivamente, una volta che... Cioè, è successo, dico una banalità, una cosa che sanno tutti, però è successo un po' il contrario di quello che succedeva una volta. Una volta si faceva il live, sì. Ma la tendenza era fare dischi, degli album, eccetera. Quindi, e parallelamente tu facevi il live. Okay? Quindi il live era un modo per farsi conoscere, incontrare il pubblico quando dopo invece... aver venduto i dischi. Esatto. Oggi però oggi è difficile anche venderne molti, no? No, oggi sono... è il contrario, fai esattamente il contrario, cioè fai il disco prima, quindi devi investire, eccetera, per poter fare il live. Perché non ti conosce nessuno se non hai... Quindi ti proponi ai vari teatri, locali, via dicendo, certo. E poi guadagni con il concerto. Però questo lo puoi fare se sei conosciuto, altrimenti nessun teatro ti mette in mano uno spettacolo. Sì, ma il problema è anche dei live stessi in qualche modo, senza creare confusione, perché la domanda verte inevitabilmente verso questo caos, ma il caos della musica. È costa che fare i live, perché un conto è il grande concerto del grande, ma già del piccolo gruppo, il piccolo autore che vuole proporsi al locale, tra i costi della SIA e tra i costi del gestore, alla fine ha poco anche per lui. Quindi diciamo, nessuno investe sulla musica, ma dico anche le istituzioni che potrebbero veicolare in qualche modo. Esatto, cioè diciamo che non si riesce a sbloccare il famoso, il solito circolo vizioso, cioè il punto di partenza qual è? Uno fa musica, ok, come faccio a veicolarla? Cioè, semplice, questa è la domanda. Come faccio? Vorresti avere tanti soldi. Esatto, se non ci sono i soldi, se non riesco... E se tutto quello che io produco finisce in rete, cioè su internet, gratis. Così come quando tu fai delle foto e le metti su internet per vederti. E secondo me... Nella seconda parte della puntata, ovvero dopo Lolli e la super mega galattica pubblicità di Radio Città Fujiko, delle 7:30, credo che, ritornando a parlare di un progetto che certi due cantautori qui presenti hanno in comune, si potrebbe forse andare ad avvicinarsi alla risposta di questi sé che ci hanno accompagnato. Beh, noi lo speriamo. Assolutamente, assolutamente. E allora... Rimanete sintonizzati su Radio Città Fujiko per proseguire l'ascolto della 119esima puntata di Coxo Spaziale. Aspettateci. Buon Lolli e buoni spot che sono fenomenali. Anche Lolli è fenomenale. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Col caldo vado un po' in agitazione, oscuro tutta la mia abitazione. Contatto il mio dentista ma va in ferie, respirando sulla ghiaia, allontano la vecchiaia e alla pesca della festa solo serie. Col caldo divento antagonista, bevo l'acqua calda del dentista, sogno una crociera ma è noiosa, scelgo la mezza pensione, mi mangio colazione, i fiocchi da vena varicosa. stella, divento solidale mai pietà, cavalcando in autostrada la caviglia si degrada, adesso lo spessore è la metà. Col caldo vorrei dell'aria in fretta, trascendo e divento bicicletta, sellino di me stesso ma vescico, sudorando sul pedale, intralcio la statale, avrei una vaga idea ma non lo dico. Già finito?